Savonarola, il frate che spaventò Firenze. Prose scelte, un programma prodotto da Davide e Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che fu membro del gabinetto di Rudinì, e lette oggi da me, che al massimo i di Rudinì li faccio al gabinetto. D'altra parte, chi mangia, beve, dorme e caca sta meglio del Papa. Serio. Capitolo 11. Noè. Nell'avvento del 1494 Savonarola riprese adunque la sua predicazione in Firenze con l'animo più sicuro e la parola più franca e con un uditorio sempre crescente. Era il capo della congregazione toscana che parlava, il frate di vita esemplare, quegli le cui parole si verificavano così stranamente e la cui assoluzione era stata desiderata dal Magnifico stesso. Queste cose tutte gli accrescevano talmente il favore della moltitudine che poteva spingersi a parlar con ogni ardire senza più temere le vendette di Piero dei Medici. Ed infatti la cattiva vita dei principi italiani e dei grandi ecclesiastici, la corruzione e la rovina di tutta la Chiesa, l'avvicinarsi dei flagelli ed il desiderio che dovevano averne i buoni affinché si mettesse finalmente un argine a questa universale depravazione, tali furono gli argomenti su cui versarono di continuo le 25 prediche che egli fece nella avvento di quest'anno sul salmo Quam Bonus. Ne ha per gli ecclesiastici, parlano contro la superbia e l'ambizione e sonvi immersi fino agli occhi, predicano la castità e tengono le concubine, comandano che si digiuni e vogliono splendidamente vivere. Costoro sono libri disutili, libri falsi, libri cattivi e del diavolo, perché esso vi scrive dentro tutta la sua malizia. Questi prelati se stollono delle loro dignità e disprezzano gli altri, sono quelli che vogliono essere riveriti e temuti, sono quelli che cercano le prime cattedre nelle sinagoghe, i primi pergami d'Italia. Costoro cercano la mattina ad essere trovati in piazza ed essere salutati ed essere chiamati maestri e rabbi. Sputano tondo e vogliono essere intesi ai cenni. Dai prelati passa a descrivere i principi d'Italia. Questi principi cattivi sono mandati per punire i peccati dei sudditi. Essi sono veramente un gran laccio alle anime. I palazzi e le corti loro sono il rifugio di tutti gli animali e mostri della terra, il ricovero cioè dei ribaldi e scellerati, i quali vi accorrono perché vi trovano modo e incitamento a cavarsi tutte le sfrenate voglie, tutte le malvagie passioni. Ivi sono i cattivi consiglieri che studiano sempre nuovi pesi e nuovi balzelli per succiare il sangue del popolo. Ivi sono i filosofi e poeti adulatori, i quali con mille favole e bugie fanno cominciare dagli dèi la genealogia di questi principi malvagi. Ma quel che è peggio, ivi sono i religiosi che seguono il medesimo stile. Questa, o fratelli, è la città di Babilonia, la città degli stolti e degli empi, la città che il Signore vuol distruggere. Così questo avvento discorre i costumi, la politica, la religione e la Chiesa, condanna i principi e i sacerdoti e viene alla conclusione che il flagello si avvicina ed i buoni debbono desiderarlo. Dopo aver esposto tutta la sua dottrina, gettava il Savonarola un guanto di sfida a tutti i potenti della terra, principi temporali e principi ecclesiastici, ricchi, dignitari della Chiesa e dei governi. Tutti erano bersaglio alle sue accuse. Io sono, egli diceva, come la gragnuola che colpisce chiunque si trova allo scoperto. Riposatosi fino alla quaresima del 94, ripigliò l'esposizione della Genesi, da lui cominciata già nel 1490 e continuata poi senza quasi mai interromperla. Le prediche che fece allora portano il nome di Prediche sopra l'Arca di Noè. Dopo avere nel precedente avvento dimostrato la necessità e prossimità del flagello, viene il Savonarola a costruire un'arca mistica nella quale debbono rifugiarsi tutti coloro che vogliono salvarsi dal nuovo e vicino diluvio. Il Savonarola si trattenne tutta la quaresima in questa strana allegoria ed ogni giorno dicendo di mettere una tavola. Finalmente, la mattina di Pasqua, l'arca era compiuta. Ognuno s'affretti, egli concluse quel giorno, ognuno s'affretti ad entrare nell'arca del Signore. Noè oggi invita tutti, la porta è aperta, ma verrà tempo in cui l'arca sarà chiusa e molti invano si pentiranno di non esservi entrati. In tutta la Quaresima parlò a lungo di questi vicini flagelli ed annunziò la venuta di un nuovo Ciro che avrebbe traversato vittorioso l'Italia senza trovare ostacoli e senza rompere lancia. Questi sermoni destarono un interesse così straordinario e così universale che il Duomo s'empieva ogni giorno di maggior popolo ed il Savonarola era divenuto il personaggio più importante che vi fosse in Firenze. Faceva solamente meraviglia che si fosse trattenuto così a lungo nel costruire l'arca e in tutta la Quaresima non avesse ancora finita l'esposizione di quel breve capitolo della Genesi che ne parla. Egli medesimo dice che si maravigliava di questa sua lentezza e gli pareva quasi che una forza superiore ve l'obbligasse. Ma verso il settembre, avendo ripreso il predicare e fatto sul medesimo argomento altri 13 sermoni, s'affrettò di venire alla conclusione. Infatti, il terzo di quei sermoni doveva già esporre il 17° versetto che parla del diluvio e cadde nel 21 settembre, giorno memorabile per il Savonarola e per il suo uditorio. Il Duomo bastava appena a contenere la folla che, piena d'una nuova e strana ansietà, attendeva da più ore. L'oratore saliva finalmente sul Pergamo. L'attenzione ed il silenzio erano maggiori assai del solito. Quando egli ebbe con lo sguardo misurato il suo uditorio, quando egli ebbe visto l'insolita trepidazione che lo dominava, gridò terribilmente: «Ecce ego ad ducam aquas super terram!» Quella voce parve come una folgore che scoppiasse nel tempio. Quelle parole sembrarono mettere uno strano terrore nell'anima d'ognuno. Pico della Mirandola raccontava che un brivido era corso per tutte le sue ossa, che i capelli gli si erano rizzati sulla fronte, e il Savonarola ci assicura che egli non era quel giorno meno commosso dei suoi ascoltatori. Ma donde nasceva mai tanta agitazione? La cagione ne era veramente gravissima. In quei giorni appunto era venuta la nuova che un fiume d'eserciti stranieri traversava le Alpi per venire a conquistare l'Italia e la fama, accrescendo il vero, ne diceva il numero infinito, la statura gigantesca, l'indole feroce e le armi invincibili. La nuova giungeva come inaspettata, niuno dei principi italiani vi era apparecchiato, le armi nazionali erano spente e le straniere nemiche. Il terrore dominava talmente gli uomini che già pareva di vedere scorrere i rivi del sangue. La folla correva perciò quasi ad implorare aiuto dal Savonarola. Tutte le sue parole s'erano verificate. I principi di cui aveva predetto la morte erano già scesi nella tomba. La spada del Signore s'era avvicinata alla terra. I flagelli cominciavano. Egli solo aveva predetto questi mali e veduto l'avvenire. Egli solo doveva conoscere il rimedio a tanta sventura. Il suo nome si sparse perciò in tutta Italia. Tutti gli occhi si rivolsero verso di lui, che per la forza inevitabile delle cose si trovava di essere divenuto un uomo politico. A lui ricorreva tutto il popolo, a lui andavano i più abili cittadini. Il suo partito era divenuto, come per incanto, padrone della città.